Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Capitolo terzo. Diario di Jonathan Harker. Continuazione. Quando ho scoperto di essere un prigioniero, sono stato preso da una violenta furia. Ho fatto le scale di corsa, su e giù, ho tentato di aprire tutte le porte, ho guardato da tutte le finestre che trovavo, ma dopo un poco sono stato completamente sopraffatto dalla consapevolezza della mia impotenza. Adesso, poche ore dopo, ripensando a quei momenti, credo di essere stato pazzo perché mi sono comportato come un topo in trappola. Quando tuttavia sono arrivato a persuadermi della mia impotenza, mi sono seduto tranquillamente, la calma con cui agisco sempre nella vita, e ho cominciato a riflettere sul da farsi, e seguito a pensarci, ma ancora non sono giunto a una conclusione. Di una sola cosa sono certo, ed è che sia assolutamente inutile esporre le mie idee al conte. Egli sa benissimo che io sono prigioniero, e lui che mi ha reso tale, e ha senza dubbio i suoi motivi per questo, quindi non farebbe che ingannarmi maggiormente se mi aprissi con lui. Per quanto ne capisco, farò bene a tenere per me le mie conoscenze e le mie paure, stando con gli occhi bene aperti. Vedo come stanno le cose. O mi lascio ingannare, come un bambino, dai miei timori stessi, o mi trovo in una situazione disperata. In questo secondo caso, ho bisogno, e avrò sempre più bisogno di tutta la mia lucidità per cavarmela. Ero appena arrivato a questa conclusione quando, sentendo chiudersi il grande portone di sotto, ho capito che il conte era ritornato. Non è venuto subito nella biblioteca. Allora io sono andato piano piano nella mia stanza e l'ho scoperto a rifarmi il letto. Questo era strano, ma non faceva che confermare quello che supponevo da tempo. Nel Clasad non c'erano servitori, e quando più tardi l'ho visto, attraverso l'interstizio tra i cardini della porta, intento ad apparecchiare la tavola in sala da pranzo, ne ho avuto l'assoluta certezza. Infatti, se si occupa lui stesso di queste umili incombenze, questa è la prova sicura che non c'è nessun altro per farlo. Ho avuto un brivido di spavento, perché se nel castello non c'è nessun altro, deve essere stato il conte stesso a portarmi qui, guidando il calesse. È un pensiero terrificante. Se così è, che significato ha il suo potere di domare i lupi come ha fatto tendendo semplicemente la mano in silenzio? E come mai tutte quelle persone a Bistritz e sulla diligenza sembravano avere tanta paura per me? Che cosa voleva dire l'offerta del crocifisso, dell'aglio, della rosa selvatica, del sorbo? Benedetta quella buona, quell'ottima donna che mi ha messo al collo il crocifisso, perché il toccarlo mi dà forza e conforto. È strano. È un oggetto che mi hanno insegnato a considerare con sospetto e come qualcosa di idolatrico possa essere di aiuto in un momento di solitudine e di difficoltà. C'è forse qualcosa nell'essenza stessa dell'oggetto, oppure è un veicolo, un aiuto tangibile che richiama alla mente pensieri compassionevoli, confortanti. Se sarà possibile, una volta o l'altra dovrò esaminare la questione e cercare di risolverla, ma per il momento devo scoprire tutto quello che posso sul conte Dracula, perché questo può aiutarmi a capire. Può darsi che questa notte mi parli di sé, se saprò condurre la conversazione in quella direzione. Devo stare ben attento però a non destare i suoi sospetti. Mezzanotte. Ho avuto una lunga conversazione con il conte. Gli ho fatto qualche domanda sulla storia della Transilvania e l'argomento lo ha molto appassionato. Nel raccontare di fatti e persone, e specialmente di battaglie, parlava come se fosse stato sempre presente. Mi ha poi spiegato questo dicendomi che per un boiar l'orgoglio della casata e del nome è il suo stesso orgoglio. La loro gloria è la sua gloria. Il loro destino è il suo destino. Parlando della sua casata, diceva sempre noi e usava il plurale come fanno i re. Mi piacerebbe poter trascrivere esattamente tutto quello che ha detto, perché per me era affascinantissimo. Sembrava contenere la storia intera del paese. Si eccitava nel parlare e si è messo a camminare avanti e indietro per la stanza, tirandosi i lunghi baffi bianchi e afferrando tutto quello che gli capitava sotto mano. Pareva volerlo stritolare a viva forza. Riporterò con la maggiore fedeltà possibile una delle cose che ha detto, perché in un certo senso riassume la storia della sua razza. Noi Jdeleki abbiamo il diritto di essere orgogliosi, perché nelle nostre vene scorre il sangue di molte razze coraggiose che hanno combattuto per il predominio come combatte il leone. Qui, nel vortice delle razze europee, le tribù ugre hanno portato dall'Islanda lo spirito combattivo ricevuto da Thor e da Odino, e i loro invincibili guerrieri lo hanno messo in pratica con furibonda ferocia sulle rive dell'Europa, ma anche dell'Asia e dell'Africa, al punto che le popolazioni credevano fossero calati i lupi mannari. E quando giunsero qui, essi trovarono gli Unni, il cui ardore bellico aveva devastato la terra come una fiamma viva, e i popoli allo stremo avevano pensato che nelle loro vene scorresse il sangue di quelle antiche streghe che, cacciate dalla Scizia, si erano congiunte con i diavoli del deserto. Stolti, stolti. Quale diavolo, quale strega fu mai grande come Attila, il cui sangue scorre in queste vene? E ha sollevato le braccia. È sorprendente che fossimo una stirpe di conquistatori, che fossimo orgogliosi e che respingessimo i magiari, i longobardi, gli avari, i bulgari o i turchi, quando si riversavano a migliaia sulle nostre frontiere? È forse strano che quando Arpad, con le sue legioni, invase la patria ungherese e arrivò ai confini, trovasse qui noi? E l'onfo Glalas sia stato portato a compimento qui? E quando la fiumana ungherese si riversò verso Oriente, gli Jdeleki furono proclamati consanguinei dei magiari vittoriosi, e a noi fu affidata per secoli la difesa della frontiera con la terra dei turchi. Sì, e c'è di più. Si trattava di una protezione senza fine della frontiera, poiché, come dicono i turchi, l'acqua dorme, ma non dorme il nemico. Chi, tra le quattro nazioni, ricevette più allegramente di noi la spada insanguinata? Chi fu più veloce di noi nel rispondere al suo richiamo guerresco e a correre a proteggere lo stendardo del re? Quando fu vendicata la grande onta della mia nazione, la vergogna di Kosovo, in cui le bandiere dei Valacchi e dei Magiari furono calate davanti alla mezzaluna, chi, se non uno della mia stirpe, in qualità di voivoda, attraversò il Danubio e sconfisse i turchi sul loro stesso territorio. Costui era un Dracula, ma il suo stesso indegno fratello, dopo la sua caduta, vendette il suo popolo al turco trascinandolo nell'onta della schiavitù. E non fu questo primo Dracula a ispirare l'altro della sua stirpe, il quale, in un'epoca successiva, portò a più riprese le sue truppe al di là del grande fiume in terra turca, e quando venne respinto ritornò ancora e ancora e ancora, sebbene costretto a ritirarsi da solo dal campo insanguinato, dove i suoi uomini erano stati massacrati perché sapeva che lui solo, infine, avrebbe trionfato. Dicevano che pensava solamente a se stesso. A che cosa servono dei contadini senza un capo? Che scopo avrebbe la guerra senza un cervello e un cuore per condurla? E ancora, quando con la battaglia di Mohax ci liberammo dal gioco magiaro, noi del sangue dei Dracula, eravamo tra i capi perché il nostro spirito non poteva tollerare che non fossimo liberi. Mio giovane signore, gli Zekeli e i Dracula sono il sangue del loro cuore, i loro cervelli, le loro spade. Possono vantare una storia di famiglia che gente cresciuta in fretta come gli Asburgo o i Romanov non potranno mai uguagliare. I tempi guerreschi sono ormai finiti. Il sangue è una cosa troppo preziosa in quest'epoca di disonorevole pace, e le glorie delle grandi stirpi sono già state raccontate. Più tardi, mattina del 16 maggio. Dio preservi la mia salute mentale, perché a questo sono arrivato. Salvezza e garanzia di salvezza appartengono ormai al passato. Finché rimango qui, mi resta una sola cosa da sperare, ed è di non diventare pazzo. Se non lo sono già, ma se sono sano di mente, c'è davvero da perdere la ragione all'idea che tra tutte le sozzure che stanno in agguato in questo orrido luogo, il conte è per me la meno spaventosa, che soltanto in lui posso cercare salvezza, ma solamente finché servirò ai suoi scopi. Gran Dio, Dio di misericordia, concedimi di conservare la calma, perché al di fuori di essa c'è la follia. Comincio a vedere sotto una luce nuova certe cose che prima mi lasciavano perplesso. Fino a questo momento non avevo ben capito che cosa intendesse Shakespeare quando fa dire ad Amleto: «Le mie tavolette, presto le mie tavolette! È bene che io registri questo!» Perché ora, con la sensazione che il mio cervello sia sconvolto o che il colpo ricevuto finisca per distruggerlo, mi aggrappo al mio diario per trovare requie. L'abitudine di annotare tutto accuratamente mi aiuterà a calmarmi. Il misterioso avvertimento del conte mi aveva spaventato a suo tempo e mi spaventa ancora di più adesso, se ci penso, perché egli avrà un potere spaventoso su di me. Avrò paura di mettere in dubbio qualsiasi cosa mi dirà. dopo aver scritto sul mio diario e averlo fortunatamente messo in tasca insieme con la penna, mi è venuto sonno. L'avvertimento del conte mi è tornato in mente, ma l'idea di disobbedirgli mi dava un certo piacere. La sonnolenza si impadroniva di me insieme con l'ostinazione che sempre l'accompagna. La dolce luce della luna era distensiva e l'ampio panorama che avevo davanti mi dava una sensazione confortante di libertà. Ho deciso così di non tornare in quelle stanze oppresse dalla tetraggine, ma di passare la notte nell'appartamento dove un tempo erano vissute dame gentili. Avevano cantato e condotto tranquille esistenze, i dolci cuori addolorati dall'assenza dei loro uomini, impegnati in guerre accanite. Ho tratto dal suo angolo un grande divano in maniera di poter vedere, stando disteso, la vista incantevole a est e a sud, e senza curarmi minimamente della polvere, mi sono sdraiato per dormire. Devo essermi addormentato, suppongo. Anzi, lo spero, ma temo che così non sia, perché tutto quanto è successo era così straordinariamente reale, così reale, che ora, mentre me ne sto seduto qui, nella piena luce del sole mattutino, non riesco a persuadermi di avere soltanto sognato. Non ero solo. La stanza era la stessa, sotto ogni aspetto immutata da quando io vi ero penetrato. Alla luce brillante della luna potevo vedere sul pavimento le impronte dei miei stessi passi, là dove avevo disturbato la polvere accumulata dal tempo. Di fronte a me c'erano tre giovani donne, illuminate dalla luna, che nell'abbigliamento e nel tratto si rivelavano come signore. Appena le ho viste ho creduto di sognare, perché sebbene avessero la luna dietro le spalle, non proiettavano ombra sul pavimento. Esse si sono avvicinate a me e mi hanno guardato per un po', poi si sono messe a bisbigliare tra loro. Due erano brune, con il naso aquilino come quello del conte e grandi occhi scuri penetranti che sembravano quasi rossi nella pallida luce dorata della luna. L'altra era bionda come di più non si può esserlo, con una massa di capelli d'oro ondulati e occhi simili a pallidi zaffiri. Ho avuto l'impressione di conoscere il suo volto e che fosse collegato a qualche onirico timore, ma non sono riuscito a ricordare lì per lì né il come né il quando. Tutte e tre avevano denti bianchissimi e smaglianti che brillavano come perle sul rosso delle loro labbra voluttuose. Qualcosa in loro mi metteva tuttavia a disagio. Provavo una specie di brama e contemporaneamente un'angosciosa paura. Sentivo in me un perverso, ardente desiderio di essere baciato da quelle labbra rosse. No, no, non è bene che io scriva questo, perché un giorno potrebbe capitare sotto gli occhi di Mina e causarle dolore. Ma è la verità. Le tre donne bisbigliavano tra loro, poi hanno cominciato a ridere. Una risata argentina musicale, ma al tempo stesso così dura da far pensare che un suono simile non potesse uscire da tenere labbra umane. Era come l'insopportabile tintinnante dolcezza di un'armonica a bicchieri suonata da una mano esperta. La bionda ha scosso il capo con civetteria e le altre l'hanno incoraggiata. Una ha detto: «Via, sei tu la prima. Noi ti seguiremo, hai diritto di incominciare». E l'altra ha aggiunto: «È giovane, è forte. Ci sono baci per tutte noi». Io me ne stavo immobile, sbirciandole da sotto le palpebre in un tormento di deliziosa attesa. La bionda si è fatta avanti e si è chinata su di me, finché mi sono sentito sfiorare dal suo alito dolce. E in un certo modo, dolce come il miele, mi dava lo stesso fremito della sua voce, ma sotto la sua avità c'era un che di aspro, un'asprezza ripugnante, qualcosa che faceva venire in mente l'odore del sangue. Avevo paura di sollevare le palpebre, ma attraverso le ciglia riuscivo a vedere benissimo. La ragazza bionda si è inginocchiata, chinandosi su di me piena di bramosia. C'era una deliberata volontà che era al tempo stesso eccitante e repulsiva, e nel piegare il collo la donna si è leccata le labbra proprio come un animale. E alla luce della luna ho visto scintillare la sua bocca umida e scarlatta e la lingua rossa lambire i denti bianchi e acuminati. Il suo capo scendeva sempre più in basso finché le labbra sono arrivate al di sotto della mia bocca e del mento, come se intendessero attaccarsi alla mia gola. Poi si è fermata, leccandosi i denti e le labbra, e io sentivo la sua lingua schioccare, il suo alito caldo sfiorarmi il collo. Sulla gola la mia pelle formicolava tutta e rabbrividivo, come succede quando una mano si accosta a noi, facendosi sempre più vicina, per solleticarci. Già sentivo il tocco morbido e fremente delle sue labbra sulla pelle sensibilissima della gola, e la dura pressione di due denti aguzzi esercitarsi lieve su quel punto. Ho chiuso gli occhi in un'estasi di languore e ho atteso, il cuore in tumulto. Ma in quell'istante stesso ho provato un'altra sensazione, fulminea. Ho avvertito la presenza del conte. Ho capito che era lì, in preda a una furia tempestosa. Involontariamente ho aperto gli occhi e ho visto la sua mano possente afferrare il collo esile della donna bionda e tirarla indietro con forza gigantesca, e gli occhi azzurri di lei sconvolti dall'ira, i denti digrignanti, le belle gote infiammate dalla passione. Ma il conte, mai avrei potuto immaginare un simile parossismo di collera e di furore, neppure nei diavoli dell'inferno. I suoi occhi ardevano letteralmente, emanando una spaventosa luce rossa, come se dietro di essi brillassero le fiamme dell'inferno. Il suo viso era mortalmente pallido, i tratti induriti come corde tese, le folte sopracciglia che si congiungevano sopra il naso parevano una pesante barra incandescente. Con un violento moto del braccio ha scagliato la donna lontano da sé, le altre le respinte con un cenno, lo stesso gesto imperioso che lo avevo visto fare con i lupi. Poi, con una voce che, per quanto bassa, quasi bisbigliante, sembrava squarciare l'aria e risuonare per la stanza, ha esclamato: «Come osate toccarlo voi tre? Come osate mettere gli occhi su di lui quando ve l'ho proibito? Indietro, vi dico!» «Quest'uomo appartiene a me. Badate di non toccarlo, o avrete a che fare con me.» La donna bionda, con una risata di ribalda e civetteria, si è voltata a ribattergli: «Tu che non hai mai amato, tu che non sai amare!» Le altre si sono unite a lei e nella stanza si è levato un riso tetro, aspro, opaco, il cui suono mi ha fatto quasi svenire. Pareva la gioia dei demoni. Il conte si è voltato e, dopo avermi osservato con attenzione, ha risposto mormorando: «Sì, anch'io so amare. E voi stesse ne avete avuto la prova in passato. Bene, vi prometto che quando avrò finito con lui, potrete baciarlo a vostro piacimento. Ma andate adesso. Via! Devo svegliarlo, perché c'è del lavoro da fare. E per noi non c'è niente questa notte? Ha domandato una di esse con una risata sommessa, indicando un sacco che il conte aveva gettato sul pavimento e che si muoveva come se contenesse una creatura vivente. Il conte ha assentito con il capo. Una delle donne è balzata avanti e ha aperto il sacco. Se le mie orecchie non mi hanno ingannato, ho sentito un rantolo e un flebile gemito, come di un bambino mezzo soffocato. Le donne gli si sono radunate intorno e mi sono sentito inorridire. Ma mentre guardavo, esse sono scomparse e con loro il raccapricciante sacco. Non c'era una porta vicina alle donne ed esse non mi sarebbero potute passare accanto senza che io le vedessi. Sembrava che fossero semplicemente svanite tra i raggi della luna, passando dalla finestra, perché per un attimo sono riuscito a scorgere fuori le loro forme vaghe e indistinte prima che si dissolvessero del tutto. A questo punto, sopraffatto dall'orrore, sono sprofondato nell'incoscienza.